che le streghe potessero tornare, a disdoro e spavento di noi maschi, lo minacciavano altrimenti 9 anni fa uno dei primi slogan femministi. Non mi sembra, in tutta sincerità, che quella minaccia si sia realizzata. Di streghe in giro ce ne sono tuttora pochine, pochissime tra le militanti d'allora continuano a occuparsi di queste cose, e l'invito a tremare, in cui lo slogan si concretava, potrebbe essere meglio riferito alla piattezza ideologica ideale in cui siamo immersi, una piattezza in cui di qualche strega in più si sentirebbe davvero bisogno. Ritorna in compenso il premio strega. Ritorna non perché quella benemerita istituzione letteraria, che tra parentesi non è intestata né alle fattucchiere né alle femministe, ma a un tipico liquore dolce un tempo piuttosto popolare, non perché quella benefica istituzione si sia mai interrotta, ha da poco festeggiato il 60° anno d'età e dicono tutti che sia più vitale che mai. A tornare sono i libri che ne erano stati segnalati e insigniti. Opere di molte delle quali in 60 anni si era ragionevolmente perduta ogni traccia. Che stiano per tornare lo si apprende in uno dei tanti foglietti promozionali con cui vengono farciti di questi tempi gli inserti dei quotidiani e le copertine dei settimanali, che promette l'emozione e il piacere della lettura in una collezione unica e prestigiosa a chiunque aderirà all'iniziativa di un'importante casa editrice che si appresta a pubblicare tutti in un botto i 100 capolavori appunto della collezione Premio Strega. Basterà compilare e inviare la clusa cartolina con affrancatura a carico del destinatario e si è da posto. Ora, immagino conosciate anche voi questo tipo di promozioni a mezzo cartolina, no? Si tratta in genere delle più solenni fregature che si possano immaginare. La qualità degli articoli offerti di solito sono vini, però anche articoli per la casa, attrezzi da ginnastica, articoli per l'igiene personale o altro. La qualità degli articoli viene magnificata in termini reboanti, ma i particolari merceologici, fatte salve le debite eccezioni, tendono a essere vaghi. E l'efficacia suasoria della proposta di solito si affida alle promesse di doni suntuosi e sconti particolarissimi. Si grattando l'apposita superficie argentata o sollevando il tassello in basso a sinistra, l'aspirante acquirente troverà il suo nome o una qualche frase propiziatoria, verrà colmato di ogni genere di benefici e potrà acquistare a cuor leggero. E anche se non ci vorrebbe molto a calcolare che i supposti doni verranno fatti pagare come più del resto, e che pur applicando tutti gli sconti possibili previsti il costo finale resterà un bel po' superiore alla media di mercato, qualcuno finisce sempre per cascarci, almeno giudicare dalla costanza con cui di offerte del genere siamo continuamente ribombardati. Nulla di tutto questo, naturalmente, per i 100 volumi del Premio Strega. E i libri sono una cosa seria, la casa editrice proponente più che seria è serissima, non c'è traccia di spazi argentati da grattare o di tasselli da sollevare, e di prezzi non si parla nemmeno. Tutte le informazioni di natura pratica commerciale, prezzo incluso suppongo, verranno comunicate gratis e senza impegno a chi lo chiederà inviando la cartolina, con le quali informazioni gli giungerà anche in omaggio il volume Anni Stregati 1947-2000, 183 pagine complessive, 180 fotografie, edizione in brossura, formato centimetri 20x31, omaggio non condizionato da alcun acquisto, dedicato a letteratura, storia e società attraverso i protagonisti del premio. Manca la descrizione dei volumi, per ora. Ma non lascia neanche quella a desiderare, e si specifica che i 100 capolavori del Premio Strega sono stati realizzati in 3 raffinati colori, grigio e rosso e marrone, che ogni volume contenuto e protetto in un cofanetto e rilegato in tela e arricchito da un'elegante sovracoperta e da un segnalibro di seta coordinato con il colore della copertina, e che su ogni volume e sul relativo cofanetto è riportato l'incipit del romanzo stampato in basso rilievo, e come se non bastasse che il valore culturale e l'unicità di questa collezione, con la maiuscola, sono sottolineati anche dal fatto che ogni romanzo è arricchito da un'ampia prefazione, con la maiuscola, scritta da un autorevole critico. I prefatori sono studiosi illustri, noti giornalisti e spesso scrittori che rivestono un posto importante nel panorama della letteratura contemporanea. E dunque in fondo c'è il DVD, il tesoro della lingua italiana del secondo Novecento, in cui i testi dei 100 romanzi sono raccolti in un unico database, secondo un progetto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed elaborato da Tullio De Mauro, che ne è anche direttore scientifico ed esecutivo. Insomma, mica paglia, eh? 100 volumi, formato 12x18, 35.000 pagine, legatura intera, cofanetto segnalibro in seta, incipit in bassorilievo, DVD più il volume anni stregati in dono. Non c'è chi non si senta immediatamente tentato di inviare la cartolina. C'è solo un particolare che può spingere a trattenersi, che in effetti a me mi ha trattenuto, oltre al fatto che l'arrivo improvviso di 100 volumi creerebbe a casa mia grossi problemi di spazio. È che di questi 100 oggetti editoriali rilegati in grigio, rosso e marrone non vengono mai indicati in tutto il prospetto illustrativo nel titolo, nel nome dell'autore, né per quanto poco possa contare quello del prefatore. L'unico nome è quello di Tullio De Mauro, che di 60 opere si specifica che sono le vincitrici del più prestigioso premio letterario italiano della Fondazione Oggi, sicché non sarebbe impossibile con qualche lavoro di ricerca scoprire di cosa si tratta. Ma le altre 40 rappresentano soltanto una selezione di altrettanti romanzi in concorso. E qui vorrei proprio sapere come fare a individuarle. Ed è strano, perché di un'offerta di libri, per così dire, anonimi non mi era mai capitato di avere notizia. E un libro di solito lo si vuole acquistare perché lo ha scritto quel tale, o perché ha quel particolare contenuto che il titolo indica. Non so, uno può essere interessato alla storia d'Italia e un altro alle 200 amanti di Fra Chiavolino da Portici. Anche le offerte di vini pregiati di solito specificano il doc del vitigno. E chi entrando in libreria chiedesse semplicemente un romanzo, mi dia un romanzo, farebbe almeno la stessa brutta figura di chi oggi in enoteca si azzardasse a pretendere mezzo litro di rosso e basta. D'accordo, sono tutti titoli che hanno concorso allo Strega, 60 lo hanno anche vinto. Ma avete presente in 60 anni quanti scrittori si sono misurati in quella gara e con quante opere, non tutte ovviamente a livello del capolavoro? Fare un'ordinazione alla cieca in quella massa di carta stampata significherebbe davvero sperare un po' troppo nel caso. Immagino che mi si potrebbe rispondere che essere offerta in realtà era solo la possibilità di richiedere informazioni ulteriori, e che tra esse informazioni ulteriori l'elenco dei titoli e quello degli autori non sarebbero certo mancati. Ma che titolo e autore di un libro possano rappresentare un'informazione, per così dire, di seconda linea, successiva a quelle sul colore della rilegatura e sul tessuto del segnalibro? È la prima volta che lo sento dire. Proprio dovevo proprio arrivare alla mia età per scoprire che esistono degli operatori culturali, diciamo degli operatori, capaci di offrire in vendita un blocco di 100 volumi a prescindere dalle indicazioni che ne farebbero opere degne d'essere lette. Tanto mi direte voi, oggi non legge più niente nessuno i libri venduti a collane intere come quelli offerti in edicola dagli acquirenti dei quotidiani, e sono soprattutto articoli d'arredamento, un moderno surrogato delle statuette di Capodimonte e delle ceramiche con il Pino e il Vesuvio. Ed è vero, naturalmente, è vero. Ma scoprire che una delle case editrici più blasonate del paese, forse la più antica, può programmare la propria strategia di mercato sulla base della tacita accettazione di questo tipo d'analfabetismo di massa, beh, fa abbastanza malinconia, no?